giro solitario mentre fumo, stando in piedi all'apparato respiratorio. Mal di testa, onde calme, segui il moto, ora dormi, già riposa nel palato, tutto il giorno disgustato, fatto sta che questa rabbia costruisce solo in sabbia, e quando anche possa usarsi, lei non fa che dilettarsi.